Giovedì 4 luglio del 2013, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa dal 1977, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente, libera da padroni e pubblicità. Per sostenerla potete sottoscrivere sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma. Oppure basta andare sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce sostieni, troverete anche la modalità PayPal. Diamo inizio a Visionari, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta la trovate sul sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 4 luglio, i nostri suggerimenti e indicazioni su film in già programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e gli altri appuntamenti poi della settimana in giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni. Il link per ascoltare la puntata precedente, quelle del 2013 ma anche di parte del 2012. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e c'è anche la pagina Facebook, appunto, Visionari. In collegamento con Giorgio Ginori, direttore della 19ª edizione dell'Isola del Cinema all'Isola Tiberina qui a Roma dal 20 giugno, è cominciato il 20 giugno, andrà avanti fino al 30 settembre. Giorgio, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno. Sì, finiamo un po' prima del 30 settembre, agli inizi di settembre, vediamo, poi bisogna guardare col naso lì in su il tempo, che adesso finalmente è tornato al caldo, perché io scherzando ho detto ai miei collaboratori che è finita l'edizione autunnale dell'Isola del Cinema ed è iniziata l'edizione estiva, perché adesso finalmente è arrivato il caldo. E col caldo arrivano tanti eventi di queste 77 serate, oltre 200 film, 4 schermi e 20 anteprime nazionali, cioè inediti che arrivano da ogni parte del mondo. E stasera tra l'altro arriva un amico carissimo che io ho visto crescere, che è Matteo Garrone, che sì, sarà sull'isola col suo reality, che ti ricordi ha vinto lì al Festival, sì, di Cannes. Sì. Giorgio, una delle più ricche rassegne romane, dicevi il numero anche, ci fornivi un po' di numeri per questa che è diventata una rassegna maggiorenne, la 19ª edizione. Diciamo un po' anche bene o male come è strutturata, quali sono i giorni della settimana e quali sono gli orari. Allora, è strutturata naturalmente 7 giorni su 7, inizia intorno alle 19, quando nella sezione Cinema E arrivano scrittori. Cinema E è la sezione Cinema E Letteratura, Cinema E Poesia, Cinema e Musica, Cinema e Filosofia. Abbiamo tutta una serie di incontri che fanno parte di quel momento, appunto, dell'incontro con registi, con scrittori, con sceneggiatori, perché le linee guida brevissimamente sono: da una parte promozione del cinema italiano, soprattutto del nuovo cinema italiano, sì, e quindi tantissime opere prime, tantissimi cortometraggi e poi naturalmente anche quelli che ormai sono dei protagonisti consacrati del cinema italiano, tipo appunto stasera Matteo Garrone, poi c'è Sorrentino che arriva, poi c'è Salvatores, arriva Castellitto e la Mazzantini. Insomma, questo è il cinema italiano, che è un po' la prima grande passione. Poi c'è Isola Mondo, quello che chiamiamo Isola Mondo, e ogni anno ci sono una decina di paesi. In 19 anni penso che sull'isola sono arrivati qualcosa come un centinaio di paesi, ed è una finestra che noi apriamo su paesi come l'Argentina, Indonesia, Francia, Polonia, che ne so, Burkina Faso, Sudafrica, e il cinema è come una finestra che si apre su quei paesi, che racconta la realtà di oggi di quel paese, ma aprendo poi come uno zoom che si apre anche ad altri momenti della cultura di quel paese. E sì, quindi anche da lì sì. arrivano scrittori, arrivano tutta una serie di eventi legati alla musica. Ad esempio quest'anno dal Giappone porteremo un'anteprima mondiale, ma insieme al cinema porteremo anche la danza, porteremo le arti marziali, insomma una finestra sul Giappone di oggi. Sì. Oh, Giorgio, mi sembra anche che tu a livello panoramico abbia fatto anche ci abbia dato un quadro piuttosto esaustivo anche dello spirito e anche della proposta, del livello di proposta di questa rassegna. Abbiamo anche dei riferimenti internet, chiaramente, per vedere più nel dettaglio la programmazione? Assolutamente, se voi cortesemente andate se i nostri ascoltatori vanno su www.isoladelcinema.com, trovano dei riferimenti su tutta la programmazione. E se tu permetti, se ho ancora qualche attimo, Certo. vorrei segnalarti una cosa che mi sta molto a cuore, che si chiama Mamma Roma e i suoi quartieri. Sì. Mamma Roma e i suoi quartieri è alla seconda edizione, l'anno scorso ha avuto un successo straordinario ed è rivolta a tutti i romani che in 3-5 minuti possono, con un telefonino, con una piccola telecamera, raccontare qualcosa, un'emozione, un luogo del loro quartiere. Lo facciamo insieme alle biblioteche di Roma, ma si può anche, ecco perché mi è venuto in mente, si può anche fare l'upload sul nostro sito, cioè si può girare con un telefonino e poi scaricarlo sul nostro sito, che ripeto, www.isoladelcinema.com. Ci tengo molto, aiutateci a promuoverlo voi che siete così bravi di Onda Rossa, perché funziona così: ogni quartiere poi porta sull'isola Tiberina un corto che è il vincitore di quel quartiere, e come in un palio i 35 vincitori dei 35 quartieri di Roma sull'isola Tiberina vanno in competizione, in amichevole competizione, e alla fine vince un quartiere. L'anno scorso ha vinto, ad esempio, un bellissimo cortometraggio che si chiama L'urlo del silenzio del quartiere Ostia. Poi secondo era arrivato il Testaccio e terzo il Pigneto. Nel Bene. senso che questi tre corti avevano segnalato questi tre quartieri, l'avevano raccontato, e c'era un pubblico strepitoso venuto da tutte le periferie, e questo ci piace molto a noi dell'Isola del Cinema, perché è Mamma Roma e i suoi quartieri l'occasione per collegare l'isola di Roma, l'isola Tiberina con la periferia, con i quartieri, e i quartieri con l'isola di Roma, quasi fosse una specie di ombelico di questa grande pancia che è Roma. Bene, e con questo invito, che mi sembra molto interessante come proposta aperta a tutti e a tutte, io ti abbraccio e a risentirci presto, Giorgio. Io abbraccio te, abbraccio voi, grazie di cuore, vi aspettiamo. Ciao Giorgio, a presto. A presto, ciao. Giorgio Ginori, direttore della 19ª edizione dell'Isola del Cinema, Isola Tiberina, qui a Roma. Come abbiamo sentito, è cominciata il 20 giugno e andrà avanti fino ai primi di settembre. Con noi Matteo Pellegrini, regista del film Italian Movies, in uscita oggi in sala 4 luglio, presentato al Festival del Cinema di Roma. Matteo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buona giornata a tutti. Tra l'altro ci aveva segnalato l'uscita di quest'oggi Anita, che l'abbiamo sentita poche settimane fa in un altro ambito cinematografico. Ha detto: poi esce il film a cui ho partecipato, e quindi mettetevi in collegamento con Matteo. Io l'ho fatto, insomma, anche per... grazie. Matteo, Eccoci qua. L'avevo perso alla Festa del Cinema di Roma. Allora racconta un po' a chi ci ascolta di cosa si tratta. Cos'è Italian Movies? Ma Italian Movies è un film che vuole parlare di immigrazione, però vorrebbe farlo con un tono un po' diverso da quello che è già stato visto nel passato, per cui con due novità. Uno è il tono della commedia, ma della commedia internazionale, per cui guardando al cinema inglese o europeo in generale, quindi la commedia sì, ma molto ancorata al sociale, alla realtà dei problemi della vita reale. E il secondo punto nuovo, diciamo, almeno il nostro, diciamo, la nostra idea era di raccontare la storia con gli occhi, dal punto di vista proprio degli immigrati, cioè usando proprio questo gruppo di immigrati che sono i nostri 6-7 protagonisti come guida dentro una realtà che di solito non viene raccontata dal cinema. Ecco, a proposito dei sette che hai nominato, è suddiviso quindi in storie? No, in realtà è un film corale che racconta un'unica storia in cui ci sono 7 protagonisti, che sono questi 7 impiegati delle imprese di pulizie notturne di questo grosso studio televisivo dove si gira una noiosissima soap opera di giorno composta da personale di provenienza molto varia, perché si va dal senegalese al russo, c'è la slovena, c'è l'indiano, e loro insieme una bella notte cominciano questa loro avventura nuova. Adesso vi posso anche raccontare un po' quello che succede, ecco, ditemi voi. No, io direi piuttosto partiamo dall'idea di partenza e poi dallo sviluppo di questa storia. Com'è nato tutto? Ma l'idea di partenza, come sempre, parte da uno spunto di vita vera o di lettura. In realtà, una notte che eravamo a lavorare in una casa di produzione, ho visto arrivare gli impiegati che dovevano fare le pulizie, era il nostro amico filippino, e ho detto: pensa, se noi adesso andassimo via, una volta che noi siamo usciti, lui comincia a usare gli uffici, le fotocopie, manda i fax, e sviluppasse una doppia attività usando le telecamere, facendo montaggi. E da lì mi sono guardato e ho detto: cavolo, questo è un plot per un'idea di film assolutamente forte. E tutto ciò accadeva nel 2003. Senti, e poi diciamo, che qual è il taglio che hai voluto dare? Hai detto, insomma, la commedia però attenta, molto inserita nel sociale. Qual è il messaggio di fondo che passa dal film, se c'è un messaggio? Ma qualcuno l'ha definita una favola, e mi fa piacere questa cosa, perché alla fine volevamo raccontare una storia che fosse positiva, anche incoraggiante per tutto, per il pubblico, che desse in qualche modo, senza pontificare, senza essere retorici, ma che avesse qualcosa di utile da raccontare al pubblico. Cioè, l'idea di base è che noi tutti abbiamo da imparare, avremmo da imparare da questo gruppo di immigrati che osa sempre di più, si mette in discussione e rischiano tutto quello che hanno per inseguire un loro sogno o per riuscire a fare quello in cui credono. Quindi un grosso messaggio positivo in generale. Poi, che dire, in realtà l'altra novità era la sfida di raccontare la socialità vera, entrando in luoghi non mostrati, vedendo la realtà della città come Torino vista dal punto di vista degli immigrati, senza per questo diventare né troppo duri né perdere la commedia, perché è un film che in realtà la vera sfida era fare ridere, fare piangere e fare pensare, questo tutto insieme. Poi ci direte voi se ci siamo riusciti. Senti, tutto questo, i 7 protagonisti hanno dato un contributo attivo oltre a quello dell'interpretazione, nel senso hanno contribuito anche allo sviluppo della storia in altri se non era una sceneggiatura fin troppo prestabilita, hanno anche contribuito a cambiare qualcosa, a modificare in senso positivo? Ma devo dire che noi abbiamo lavorato sulla sceneggiatura per 5 anni di scrittura. Sì. Siamo arrivati con una sceneggiatura che era abbastanza a posto, dopodiché abbiamo fatto degli aggiustamenti una volta che abbiamo fatto il cast. Devo dire, una delle prime sorprese è stata vedere come veniva accolta da attori francesi, inglesi, colpiti di ricevere una commedia da questi toni, su questi toni, sull'immigrazione. Dice ad esempio Eric, attore francese che interpreta Zaur, questo senegalese rancoroso, lui ha detto: io questo film di commedia così sull'immigrazione me la sarei aspettata di leggere un giorno in Francia, invece viene dall'Italia. Ogni attore ha portato qualcosa, certo. Diciamo, il lavoro vero è stato solo spostare un personaggio, che è quello di Marco, che era nato come un rumeno. Poi quando il grande attore Alexei Gurko si è entusiasmato al progetto, chiaramente abbiamo dovuto fare delle modifiche per farlo diventare russo. Però ecco, per il resto devo dire, piccole modifiche, tutti abbiamo lavorato con la realtà di Torino che incontravamo, è stato molto bello. Bene, bene. Matteo, in quante copie da oggi in sala? Dunque, oggi il film esce su 40 schermi sparsi in Italia, ma Che dire d'altro? Beh. 40, devo dire, non è male, coprono abbastanza il territorio nazionale. Forse, che altro dire, avrei voluto fare un po' più di promozione, ma è sempre difficile, molto complessa anche l'uscita. Noi abbiamo presentato il film a novembre al Festival di Roma e usciamo solo ora, per cercare di avere un po' di spazio, un po' di tenuta, per dare tempo al passaparola, insomma, per non entrare nel meccanismo spietato del cinema che in tre giorni ti uccide un film. Sì. E comunque delle prospettive ci sono, anche perché il dato di partenza è una città come Torino, che in cui l'esperienza dei migranti è molto forte, e insomma è anche una città in questo senso emblematica per quanto riguarda l'incontro tra culture a livello nazionale. Ma assolutamente, devo dire, la città di Torino ha risposto benissimo ed è stato meraviglioso il confronto con le realtà etniche di ogni gruppo di Torino, perché poi nel film ovviamente c'è, la storia racconta appunto di tutta una serie di matrimoni di ogni cultura, di ogni gruppo di Torino, racconta di questi ritratti, per cui noi abbiamo fatto e lavorato con, tra l'altro, persone assolutamente vere, non attori, che sono andati sullo schermo per la prima volta. Ciascuno è rappresentanza un po' del suo gruppo, della sua etnia, della sua cultura. E la città ha risposto benissimo, è stato un viaggio meraviglioso, cioè anche bello vedere degli indiani di seconda, terza generazione che parlano con l'accento piemontese. Comunque capisci che l'Italia è in profondo trasformazione, processo di trasformazione molto profonda. Sì. Bene, allora vedremo i risultati. Io ti abbraccio, Matteo, magari ci risentiamo presto. Va bene, volentieri, quando volete. Intanto buona visione, poi ci direte se abbiamo colto nel segno, se abbiamo stati capaci di raccontare quello che volevamo. Bene. Un abbraccio, Matteo, ciao. Grazie a tutti, ciao. Matteo Pellegrini, regista di Italian Movies, in uscita oggi in sala. 40 copie. In collegamento con Alessandro Tiberio, responsabile coordinamento distribuzione per Morris Casini e Partner, per quanto riguarda l'uscita in sala di oggi, giovedì 4 luglio, del film Violeta Parra, Went to Heaven, che è il film candidato all'Oscar per quanto riguarda il Cile. E Fabrizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, salve, grazie a tutti per questo invito, mi fa molto piacere. Ho avuto modo di vederlo ieri mattina, intanto mi sembra un gran bel film con un tocco molto poetico. Sì, questo è vero, è una biografia innanzitutto di una figura importante, perché è un personaggio femminile unico e che secondo me è assolutamente straordinario come esempio, cioè un artista a tutto tondo, a 360 gradi, cantante, poetessa, pittrice, scultrice, tessitrice, ha esposto al Louvre, ha fatto la storia della musica per quanto riguarda il folk latinoamericano e però, pur essendo una biografia, riesce a non essere né una geografia né una biografia tradizionale, è proprio un racconto poetico che scardina, no, le regole della continuità temporale, è proprio un viaggio nell'arte di questo personaggio. Oh, come lo avete incontrato e come avete deciso poi l'uscita in sala, considerato anche che il film è del 2011, quindi esce dopo un po' di tempo? Sì, guarda, l'interesse è nato subito dopo il Sundance Film Festival, che il film ha vinto la sezione World Cinema l'anno scorso, e in quell'occasione l'abbiamo visto e ci è piaciuto moltissimo, in particolare Giorgia Marafioti, quella che poi è stata la responsabile della scelta effettivamente, si è innamorata del film e è stato un compito complesso distribuirlo, perché comunque è un film d'autore, un film di nicchia, se vogliamo, per alcuni versi, anche se nel cuore parla a un pubblico molto molto ampio, quindi è proprio un'occasione per conoscere un personaggio e una fase storica importantissima. Mm-hmm. E il periodo che abbiamo scelto è stato proprio questo di, diciamo, estivo, proprio per riuscire ad avere un po' di respiro e di spazi, insomma, in questa stagione che è stata abbastanza carica di uscite. Mm-hmm. E quindi in questo modo appunto la strategia è quella di cercare di reggere il più possibile fino anche all'inizio dell'autunno. Sì. Per quanto riguarda, tornando a Violeta, un percorso umano e artistico molto passionale e un'attività febbrile. Leggevo che insomma ha firmato circa 3.000 canzoni, tra cui quella che l'ha resa celebre a livello grazie internazionale, a Salavida. Grazie a Salavida, che certo. Insomma l'ha resa insomma conosciuta. Beh, interpretata da quasi tutti gli artisti, grandi artisti musicali del mondo. Sì. E tra l'altro l'attrice protagonista, oltre a una somiglianza fisica, interpreta tutti i pezzi scelti per il film. Io la prima volta che ho visto il film ci ho messo credo un'ora a capire che non era in playback. Cioè, ha fatto un lavoro veramente straordinario Franziska Gavilan, una delle interpretazioni sinceramente che lasciano completamente a bocca aperta. C'è anche chi parlava di documentario proprio perché probabilmente non captava appunto il fatto che fosse in realtà una fiction, tanto è spontanea, tanto è profonda, mimetica la sua interpretazione. Un film che intanto contribuisce al suo, nel complesso, anche una fotografia splendida secondo me, ed è ambientato comunque coerentemente con poi il credo politico di Violeta, che era a fianco degli ultimi della terra, insomma soprattutto gli indios, ma anche tutta la popolazione andina e contadina e dedita alla pastorizia, che aveva questo tesoro della tradizione musicale orale conservato, e che lei andava in giro con il registratore, con il quaderno, ad annotare, a prendere nota e insomma a recuperare questa memoria. E poi ecco, proprio l'ambientazione è proprio quella degli altipiani, il Cile degli ultimi. È verissimo, a me piace pensare che sia proprio una storia d'amore a tutto tondo, perché sì, c'è una storia d'amore in senso classico con un etnomusicologo che lei conobbe, che fu l'amore della sua vita e anche l'amore che distrusse la sua vita alla fine, ma c'è l'amore per l'arte, che appunto lei vive a 360 gradi in ogni sua forma, e l'amore per il suo popolo. Sì, che è l'aspetto più importante. Sì. Lei a un certo momento nel film, quando durante un'intervista le viene chiesto quale di queste forme di arte sceglierebbe, lei risponde proprio: stare con la gente, perché è la gente il motivo per cui io riesco a fare tutto questo, è il motivo per cui io esprimo questo amore. Quindi sì, questo nel film è molto forte, e per questo è proprio una figura profondamente umanista, quella di Violeta. Sì, anche nell'intervista, quella televisiva, che fa un po' da spina dorsale a tutto il film, fa delle considerazioni che secondo me restano nella memoria, a partire dall'amore, che lo considera fugace e comunque fonte di dolore, alla creatività, che deve essere libera, istintiva e diversificata attraverso varie forme, insomma, come poi lei ha fatto nel concreto. Assolutamente, tanto che il film è tratto da un libro scritto da Ángel Parra, esatto, che è il figlio di Violeta, esatto, Parra, anche lui cantautore, tra l'altro, esatto, che esce in libreria proprio in contemporanea con il film, quindi in realtà in libreria da ieri. Ángel racconta che diventato adolescente, al momento di poter scegliere, no, una via di istruzione, la madre gli chiese se preferiva fare una scuola classica oppure fare un viaggio, anche lui nell'entroterra del Cile, alla ricerca della tradizione, alla ricerca dei cantautori popolari scomparsi. E lui passò, mi pare, 4 anni proprio in compagnia di queste figure a recuperare insomma questo humus culturale fondamentale. Bene. Invece di andare in una scuola tradizionale. Alessandro, da oggi nelle sale in quante copie uscirà? Per adesso siamo in 11 sale, però siamo assolutamente fiduciosi che il film dimostrerà le sue gambe forti, anche perché effettivamente chi lo vede lo ama. Sì, sì, sì, io l'ho amato subito, l'ho voluto recensire, e quindi insomma speriamo anche che gradisca il pubblico. Alessandro, io ti do un abbraccio e magari a risentirci presto. Spero di sì, grazie infinite per ora. Ciao. Alessandro Tiberio, responsabile del coordinamento distribuzione per Morris Casini e Partner su Violeta Parra, Went to Heaven, in uscita oggi in 11 copie, come sentivamo. In collegamento con Luisa Mariotti di Cadoc Production per parlare del progetto documentario Donne dalla A alla Z, che ha preso il via con Produzioni dal Basso. Luisa, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie per la possibilità di esprimerci. Questa comunicazione mi era arrivata su Facebook, ho detto andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, dici un po' di questa storia. Guarda, si tratta di questo. Praticamente noi vorremmo, siamo una produzione indipendente, intanto ti dico, ci tengo a sottolinearlo questo. Certo. Però come tutte le produzioni indipendenti hanno e vivono le problematiche di avere una produzione indipendente, soprattutto in un paese come l'Italia. Sì. Questo mi duole dirlo, ma insomma è la realtà. Certo, per cui noi certo. Però non ci perdiamo d'animo e quindi andiamo avanti con varie possibilità, sì, che sì, sì, sì, il panorama ci offre. E una di queste anche noi abbiamo visto per caso una volta, proprio su internet, e c'è questa cosa nuova che è il crowdfunding. Sì. Anzi, mi viene da condividere questa cosa per chi ancora non la sapesse. E quindi abbiamo così, oltre alle varie altre forme di reperimento fondi che stiamo comunque portando avanti, anche se a fatica, abbiamo provato a fare questa cosa del crowdfunding. Che cosa significa questo? Significa che tu carichi un progetto su una piattaforma, in questo caso su Produzioni dal Basso, e poi vai a specificare e a raccontare qual è il tuo progetto. Sì. Nel caso specifico nostro, il progetto è, guarda caso, un documentario sulle donne, guarda caso, perché la Cadoc ad oggi è sostanzialmente una società di produzione, oltre che indipendente, anche di impronta femminile, insomma. Bene, io bene. Ti dico, Federico, non sono assolutamente, fra virgolette, femminista, nel senso, no? Cioè, per me, però devo dirti la verità, vivendo sulla pelle da donna una serie di situazioni, mi rendo conto che essere donne è una condizione, diciamo, un po' particolare, quindi soprattutto in questo momento storico, no? Sì. Tu accendi la radio, la televisione, e senti cose che non vorresti ascoltare. Detto questo, noi... E quindi va anche in qualche modo rivendicata come identità, insomma. Sì, infatti, sì. Detto questo, però, noi abbiamo pensato appunto di raccontare uno spaccato dell'universo femminile e di dare comunque una nota positiva, soprattutto a chi ascolta, a chi magari inizia un percorso e vede davanti a sé solo nebbia, perché questo spesso accade, no? Sì. Penso anche te all'inizio della tua carriera non sapevi dove ti avrebbe portato la tua vita. E così soprattutto magari giovani donne che, riuscendo a trovare stimolo e linfa da questo documentario, possono magari riuscire a intraprendere un percorso che poi le chiami fuori magari da una vita in questo momento abbastanza difficoltosa. Questo perché? Perché le tre figure femminili che si raccontano nel documentario sono tre donne che debbono conciliare a fatica il doppio, triplo ruolo di donne, mogli, compagne, madri, eccetera, eccetera, ed affrontare un percorso e fare della propria passione, dei propri sogni, una professione. Questa io la trovo una cosa di una difficoltà improba, e ti assicuro, essere donne è ancora più difficile. Sì. Il nostro è un progetto ambizioso, perché partiamo dalla lettera A, ma vorremmo arrivare alla Z. Quindi io sinceramente faccio un appello, che tu mi dai la possibilità. Come no? Il mio predecessore, Matteo Pellegrini, diceva che la distribuzione e la visibilità è una delle grosse problematiche, anche certo, rispetto poi a un prodotto che hai fatto già a fatica e che dura magari da mesi o da anni. Ecco, noi siamo alla lettera A. Chiunque voglia sostenere il nostro progetto può farlo andando a visionare sia su Facebook, la pagina Facebook dedicata a Donne dalla A alla Z, sia il sito che abbiamo approntato dedicato, che è www.donnedallaa.z, scritta soltanto con la lettera Z, quindi non in completo ma solo la Z di Z, e poi produzionidalbasso.com, e cliccare su documentari o cercare Donne dalla A alla Z. Peraltro chiunque abbia un progetto di audiovisivo, di editoria, un progetto sul sociale può tentare questa strada, quindi io ripeto, sono anche contenta di parlarne perché voglio condividere questa possibilità, certo, di fare crowdfunding. E poi oggi, ecco, magari qualcuno aiuterà noi cioè mi piace come concetto, mi piace proprio il discorso di, come dire, riuscire a mettere anche un po' un punto su una solidarietà che probabilmente, no, attraverso questo mezzo un pochino viene stimolata, insomma. Luisa, una cosa che volevo capire, hai detto tre storie, intanto avete individuato, e queste tre storie andranno a formare il primo documentario, oppure il documentario aspetta anche altre storie, oppure queste altre storie verranno inserite in altri documentari che faranno parte, insomma, di questo progetto? Guarda, questa è una bella domanda. In realtà questo fa parte di un primo documentario a sé, che parla di queste tre figure, che sono architetto, nella fattispecie Alessandra Pisettu, artista, nella fattispecie Paola Valori, e artigiano, nella fattispecie Sabrina Falcone. Sì. E in realtà questo è un documentario a sé stante, che mette a confronto il filo conduttore, ripeto, l'essere donna e vivere un percorso fatto di difficoltà risolte, di grande forza di volontà e di raggiungimento di obiettivi. Sì. Però la nostra ambizione è quello anche di proseguire e di arrivare fino alla lettera Z, per cui fare altre tre figure praticamente sarebbero la lettera B, la lettera C, la D e via andare. Abbiamo, oltre ai festival a cui andremo e parteciperemo, abbiamo degli interessamenti anche da parte di alcune emittenti, diciamo, televisive tematiche, e tu capisci bene, insomma, che questo è un progetto davvero abbastanza ambizioso, quindi, ma noi cerchiamo figure di donne un po' particolari, per il fatto che appunto sono riuscite ad andare sempre avanti e sono riuscite in qualche maniera anche a cambiare il corso della propria esistenza, perché io penso, sono fermamente convinta, e noi che facciamo questo di mestiere ci lamentiamo sempre, no? Quanto è difficile, quanto è qua, quanto è là, però alla fine lo amiamo visceralmente. Sono convinta che se tu fai una cosa che ami, hai in parte risolto la maggioranza dei tuoi problemi. Poi i problemi sono altri, però interiormente è come se ci avessi tutti i chakra allineati, non so come spiegarti. sì, anche perché per gli esempi delle figure di cui hai parlato, riuscire ad unire il lavoro alla passione personale, già quello è un grande risultato che non è così scontato. Del lavoro si lamentano quasi tutti e tutte, quindi riuscire a fare qualcosa in cui uno crede veramente è già un grosso risultato, secondo assolutamente me. Sì, fra l'altro ci hanno contattato tantissime associazioni di categoria, e le ringrazio al momento, adesso senza entrare, insomma, nel merito di tutte, perché insomma sono abbastanza, però per citarne un paio, la Casa Internazionale della Donna, il Garante alla Consulta delle Pari Opportunità della Regione, Patrizia Piombone, che è dirigente Pari Opportunità Comune di Roma, tanta gente che tu vedi che ogni giorno in realtà cerca di fare qualcosa e di andare, insomma, a sostegno di noi donne, Federico, che cerchiamo di fare della propria vita, insomma, un qualcosa di utile e bello anche per gli altri. Mm-hmm. Ecco, io invito anche, come dirti, i tuoi ascoltatori e ascoltatrici seguire attivamente il progetto. Bene. Perché questo ci dà forza e ci dà peso. Peraltro abbiamo fatto una cosa abbastanza utile all'interno del progetto. Ci sembrava carino anche dare l'opportunità ad una giovane regista, no? Sì. Di fare la regia del documentario. Quindi abbiamo lanciato sempre su internet la possibilità di far una giovane regista dai 18 ai 35 anni di far parte del nostro progetto, e ci hanno, tu pensa, contattato da tutte le parti del mondo. Sì, sì, e tant'è che stiamo addirittura pensando di internazionalizzare questo progetto in futuro, mettendo a confronto una figura di architetto italiano, una figura di architetta berlinese. Anche meglio, c'hanno scritto, certo, un sacco di gente da Berlino, da Buenos Aires, dalla Polonia, dall'Olanda, veramente da mezza Europa, insomma. E bene, ti rendi conto come tu parti, no, in una maniera, e poi magari ti vengono anche delle, eh sì, tutto delle, si moltiplica poi, certo, certo. Sì. Beh, Luisa, i riferimenti ce li hai dati, io spero di risentirti presto per gli sviluppi poi di anch'io, prestissimo. Bene, io ti abbraccio. Grazie, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao Luisa. Ciao, ciao, ciao. Luisa Mariotti di Cadoc Production per il progetto di documentario Donne dalla A alla Z. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Antonio Bellia, direttore della quinta edizione di Sicilia Ambiente Documentary Film Festival a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dal 9 al 14 luglio. Antonio, ben ritrovato. Grazie Federico. Ci eravamo sentiti ad aprile perché mancavano pochi giorni alla fine delle iscrizioni per inviare il materiale. Siamo adesso a ridosso di questa quinta edizione. È una tua creatura, raccontacela un po', Antonio. Sì, è una tua creatura di cui devo dire vado molto orgoglioso, che sembra che cresca ogni anno, e quest'anno devo dire la sezione documentari in particolare è cresciuta tantissimo, perché sono arrivati lavori da tutto il mondo, tra di cui lavori molto prestigiosi, per cui abbiamo alcuni titoli importanti che nell'ultimo anno hanno rappresentato l'eccellenza del documentario, come vorrei citare per primo L'Impenetrable di Daniele Incalcaterra, oppure anche Lo Stato della Follia di Francesco Cordio, che è stato nominato dal Globo d'Oro quest'anno tra i migliori documentari. E poi vorrei ricordare che quest'anno abbiamo in giuria, come presidente della giuria, da Daniele Cipri, che appunto è appena uscito dalla vittoria con il suo film del Globo d'Oro. Quindi diciamo prestigiosissima. Ci sono 10 opere in concorso nei lungometraggi, con opere provenienti da tutto il mondo, Argentina, Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi, Germania, ancora oltre. Poi ci sono una sezione cortometraggi e animazioni, che ci sono 23 opere, anche queste provenienti da tutte le parti del mondo. E quest'anno abbiamo aperto una terza sezione, per la prima volta, una sezione di mobilità sostenibile, che è una piccola sezione che però speriamo che riesca a crescere negli anni come hanno fatto le precedenti. Oh, citavi prima Daniele Cipri, che ho scoperto anche essere direttore della fotografia del film Salvo, che è adesso nelle sale, insomma. Sì. È stata una piacevole scoperta. E Antonio, parlaci un po' anche di una giornata tipo del festival, com'è articolata? Ma guarda, no, le giornate sono ricchissime, perché iniziano dalla mattina con una serie di iniziative parallele al festival, per cui dalle passeggiate in bicicletta organizzate dalla FIAB ai laboratori per i bambini di educazione ambientale, ai laboratori, ai corsi di windsurf, alla regata, e poi ci sono, al pomeriggio ci sono incontri, laboratori, e c'è anche una piccola mostra a mercato realizzata con tutto materiale di riciclo, sia gli stand, sia l'arredo urbano, sia poi i prodotti che vengono venduti, e tutto ovviamente con una base fortemente etica, che rispetta i principi del nostro festival. Mm-hmm. Per esempio martedì, per l'inaugurazione, tra l'altro si approfitta del festival per dare la consegna delle 5 vele al comune di San Vito, che uno dei mari più belli dell'Italia, e quindi faremo una cerimonia anche di consegna e una serie di premi. E poi ci sono tutte le sere presentazioni di libri nello spazio cinema, questo alle 8, preceduti da degli aperitivi. E poi vorrei ricordare soprattutto una mostra bellissima che si chiama Con i tuoi occhi di Tano Siracusa, che una veramente ci ha regalato questa mostra stupenda veramente. Bene, Antonio, due domande volevo farti. La prima, quali sono i temi principali dei lavori che ospiterete quest'anno? E poi se ci sono, se sono solo lavori di denuncia o anche di esempi virtuosi che sono stati seguiti per quanto riguarda le questioni ambientali? Sì, in realtà ci sono vari argomenti trattati. Però partiamo da quello, appunto, un esempio meraviglioso, diciamo, di documentario che ha un esito anche molto positivo, è proprio quello che citavo all'inizio, L'Impenetrable è un film di Daniele Incalcaterra, dove lui stesso è protagonista del film, girato tutto in Patagonia, di cui lui è il proprietario di una terra sterminata enorme, decide di donare agli indigeni del luogo per salvarla dal disboscamento. Lui ci ha messo circa 3 anni a realizzarlo e riesce alla fine ad avere dal Presidente della Repubblica l'ok per far diventare quella zona riserva naturale. Mm-hmm. E quindi questo è l'esempio più bello, diciamo, che abbiamo nel festival. Poi ce ne sono tanti documentari di denuncia, ma che sono anche comunque dei documentari d'autore. Questo ci tengo, per cui ci sono argomenti relativi all'inquinamento delle acque, relativamente al problema dell'immigrazione, La storia della follia, che ci davo prima, è un documentario su IPG, gli istituti dei manicomi criminali. Sì. Poi abbiamo uno sul Fukushima, un lavoro giapponese che si chiama Nuclear Nation. Oppure abbiamo della Sketch, che invece è sulla pesca del tonno rosso. Insomma, gli argomenti trattati sono veramente tanti e cercheremo di approfondirli con la presenza dei registi o dei produttori che verranno. Praticamente abbiamo quasi ogni film, tranne un paio che sono quello giapponese e uno degli Stati Uniti, di cui non abbiamo gli autori. Però gli altri sono tutti accompagnati dai registi e dai produttori, anche un film americano. Bene, cioè, ce ne sono due. Verranno i registi a presentarlo. A questo punto, Antonio, volevo ringraziare ovviamente i nostri finanziatori che sono la Film Commission della Regione Sicilia, che è l'assessorato al turismo, allo sport e allo spettacolo, e il Comune di San Vito Lo Capo. E poi comunque un grazie veramente enorme ai tantissimi partner che ci accompagnano: Greenpeace, Amnesty International, Arci, FIAB, ARPA, tutti quanti. No, sicuramente ne dimentico tanti, però insomma loro sono il cuore poi del festival. In chiusura, Antonio, per saperne di più sul programma, dacci riferimenti internet. Il programma potete trovare sul sito www.festivalsiciliaambiente.it. Benissimo. Lì troverete tutto, poi c'è anche la pagina Facebook, quindi insomma, e poi speriamo che, come ci state dando spazio voi, ce ne diano spazio tanti altri mass media presenti nel nostro paese. Insomma, il cinema e la cultura hanno bisogno di spazio, quindi ti ringrazio, Federico, per la tua attenzione sempre molto precisa e molto attenta su tutte le realtà che ci sono in Italia, le realtà interessanti che ci sono, che fanno grandissima fatica a sopravvivere in questo periodo. Certo. Io ti do un grande abbraccio, Antonio, a risentirci presto. Grazie tante, a presto. Ciao. Sì, magari ci sentiamo, ti faccio sapere com'è andata. Certo. Ok. Ciao. Un abbraccio, ciao. Federico, grazie a tutti. Antonio Bellia, direttore della quinta edizione di Sicilia Ambiente, Documentary Film Festival a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, in Sicilia, dal 9 al 14 luglio. E torna a farci visita Paola Livraghi, direttrice della rassegna Cinema al Belvedere a Giardino Rivaldi, qui a Roma. È cominciata il 30 giugno, andrà avanti fino al 31 agosto. Siamo alla 17ª edizione, se non sbaglio, vero Paola? sì, buongiorno a tutti, 17ª incrociando le dita, ma lo scorso anno non ci eravamo sentiti, non mi ricordo neanche perché. Comunque una rassegna in un luogo insomma molto piacevole, raccontaci un po' le caratteristiche di quest'anno per quanto riguarda la vostra rassegna. Dunque io vorrei aprire un attimo una parentesi, perché c'è veramente questa occasione d'oro di visitare Giardino Rivaldi, nel senso che fino all'anno scorso eravamo sul Belvedere Cederna, che adesso per una cantierizzazione non è disponibile, e quindi ci siamo spostati subito sopra in questo posto bellissimo, che tra l'altro è un posto in genere non aperto al pubblico. E quindi invito veramente tutti a passare, perché è un posto incantevole, un giardino splendido con questi alberi, con questo prato inglese, le palme davanti al Colosseo, quindi insomma è un panorama così quasi marino, con davanti questo Colosseo, Arco di Costantino e Basilica. Una Roma da scoprire, insomma. Diciamo che questi due mesi il giardino è aperto, e quindi bene cogliere l'attimo. Certo. E l'ingresso è da via del Colosseo 41, questo ecco per identificare questo nuovo spazio. Se non sbaglio il noir americano è il... Noir americano anni 50, cioè un periodo molto preciso, quindi dal 50 al 59, non andiamo oltre, abbiamo preso questo spaccato della cinematografia americana che racchiude dei film straordinari, devo dire un po' la storia del cinema noir americano, per dire, abbiamo inaugurato con Niagara, tanto per dare un titolo, e abbiamo altri film, abbiamo molti Hitchcock e abbiamo anche i primi film di Kubrick, tipo Rapina a mano armata, insomma. Quante sono le opere scelte? Guarda, sono circa 54, perché sono previste delle repliche nella seconda metà di agosto, proprio per dare a tutti la possibilità. Infatti c'è già qualcuno che mi ha detto: ma Niagara, lo replicate? E allora cercheremo come sempre di accontentare un pochino tutti. Senti, la proiezione, c'è un'unica proiezione serale e poi tutti i giorni siete aperti? Assolutamente sì, la proiezione è unica, la sera alle 21:30 come di routine, il villaggio apre alle 19, quindi diciamo che è un posto come al solito dove si può passare l'intera serata, quindi cena o aperitivo, cena, cinema e dopo cinema, insomma, quindi con un unico spostamento diciamo si può passare tranquillamente e anche serenamente una bella serata. La selezione è stata curata da Ernesto Laura. Esatto. Ci puoi dire un po' se visto che comunque avete lavorato a stretto contatto, quali sono stati poi i criteri di scelta di questo decennio di noir americano? Ma siamo andati a vedere prevalentemente i film che hanno rappresentato in maniera specifica questo periodo, anche diciamo cinematografico, che si lega anche con un periodo storico ben definito, per cui nascono anche un periodo anche letterario, per cui nascono i paper magazine e quindi un genere che poi andrà a incidere su tutto il settore appunto sia letterario, da cui prende spunto il genere cinematografico. Sì, sì, sì, sì. Quindi è un'analisi molto attenta ripeto anche con delle pellicole molto particolari, non in genere non visibili, insomma. Sì, sì, sì, sì. Quindi diciamo un'analisi proprio un po' puntina, diciamo, per dirlo, considerando appunto che abbiamo tirato fuori quasi 60 appunto pellicole, considerando su 9 anni di cinema, insomma. Sì, ecco. Sì, sì. Quindi tutti i giorni ci sarà tutti questa giorni proiezione. Le proiezioni, esatto, quindi siamo aperti ininterrottamente fino al 31 di agosto, insomma, sperando di essere così un'opzione valida per il pubblico romano. E ci dai riferimenti internet per la programmazione? Per la programmazione attivo il sito internet www.cinemaalbelvedere.it, oppure un numero telefonico per le informazioni 327-8286-126. Benissimo. Siamo stati bravi, non abbiamo nemmeno aumentato i costi, quindi abbiamo mantenuto il biglietto a quello che era il prezzo di 2 anni fa, assolutamente invariato. Benissimo. Ecco. Paola, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Federico, grazie, salutiamo tutti e vi aspettiamo al Giardino Rivaldi. Ciao ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Paola Livraghi, direttrice della 17esima rassegna Cinema al Belvedere, Giardino Rivaldi, qui a Roma, nei pressi del Colosseo, è cominciata il 30 giugno, andrà avanti fino al 31 agosto. Dovremmo avere un ultimo collegamento telefonico. Fabrizio Laurenti, regista del documentario Il corpo del Duce, che era stato inserito nella rassegna L'Italia si racconta. Fabrizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il film è stato programmato in alcune sale del Lazio l'altro ieri, martedì 2 luglio. Intanto ti chiedo un po' un bilancio, com'è andata, Fabrizio? Ma il bilancio non posso farlo se non per la sala dove ero io, perché io sono intervenuto al Lux in via Massaciucoli e non c'era molta gente, anzi ce n'era poca. Quei pochi che sono venuti però l'hanno visto con interesse, a giudicare dalle domande che poi hanno fatto, sono rimasti in sala a parlare del film, delle motivazioni, di come è stato realizzato, dell'interpretazione della resistenza, eccetera. E per le altre sale non lo so, perché questo è l'ANEC e Luce che seguono la cosa, io sono all'oscuro al momento, lo saprò solo a qualche giorno. Mi ha fatto molto piacere proiettarlo di nuovo, rivederlo dopo un po'. Ecco, dopo un po', quando risale il documentario e dici un po' come ha avuto origine? Dunque, il documentario è di quest'anno, nel senso che è andato in onda su Rete 4 a un certo punto, mi sembra che fosse maggio, una cosa del genere. Ricordo, apriva una serie di documentari che si chiamava Apocalypse, non c'entravano nulla con il mio, però c'è entrato anche il mio. E va bene. Ha avuto origine dal fatto che io avevo fatto un altro documentario su Mussolini tempo fa, prodotto da me e Gianfranco Norelli, che si chiama Il segreto di Mussolini, sulla vera e poco raccontata o mai raccontata storia del figlio di Mussolini morto in manicomio, un film che poi aveva ispirato Marco Bellocchio, che ne ha tratto un film fiction che si chiama Vincere. Sì. E quello ha avuto molto eco. Allora mi è stato proposto, dopo quel documentario, un altro documentario su Mussolini, come se io fossi diventato improvvisamente il documentarista di Mussolini. È stato proposto un film, un documentario tratto però questa volta da un libro esistente, che è Il corpo del Duce di Sergio Luzzatto, pubblicato da Einaudi. Tra l'altro avevo anche letto. Tra l'altro, Fabrizio, le vicende legate al cadavere di Mussolini hanno ispirato anche uno spettacolo teatrale, Dux in scatola, che noi abbiamo ospitato qui in radio per la rassegna di radioteatro che portiamo avanti con gli spettacoli dal vivo in studio. E insomma, anche perché ce n'è molto da raccontare. Lì era in chiave grottesca. Tu invece raccontaci un po' con che spirito hai affrontato la questione. Ma una precisione, intanto radioteatro già mi piace come concetto, quindi peccato non averlo sentito. Io ho fatto molta radio da giovane, in vari ruoli, presento anche una trasmissione di una vostra consorella, diciamo, Radio Città Futuro, moltissimi anni fa. Sì. Sugli spettacoli a Roma, all'epoca di quando Nanni Moretti aveva appena fatto il suo primo film Super 8. Devo dire, il mio spirito era lo spirito del libro di Luzzatto, cioè un'indagine abbastanza diciamo innovativa, perché non era, non si basava sui testi di altri storici, ma sulla raccolta e la ricerca di interpretazione di certi meccanismi della psicologia delle masse, che hanno portato Mussolini a diventare un'ossessione la maggioranza degli italiani quando era vivo, e dopo morto è rimasto un'ossessione il suo cadavere. Quindi era un'analisi del ruolo del corpo fisico, non è un'analisi del fascismo, però attraverso l'analisi di questo rapporto col corpo fisico si è cercato anche di capire perché gli italiani tendano ogni tanto a rimanere affascinati da un leader, dalla fisicità di un leader, cosa che poi si è ripetuta anche recentemente con Silvio Berlusconi, secondo molti. Sì. Beh, è anche un meccanismo, quello del culto della personalità, che insomma interessa un po' diverse parti del mondo storicamente, anche se pensiamo a tutte le dittature e alle statue che celebrano i dittatori e alle folle oceaniche che spesso ruotano intorno a queste figure. Pensando, ecco, adesso mentre parlavi, ci sono tanti esempi anche della storia relativamente recente e più recente, da Ceausescu a Saddam a Gheddafi. Insomma, è un meccanismo che si replica durante il corso della storia. Sì, evidentemente è un meccanismo che fa parte della struttura, immagino, del pensiero, del cervello cognitivo, nel senso, c'è una tendenza a trasformarsi in branco e seguire un capo branco, evidentemente. Nei momenti peggiori della storia questo crea poi il dittatore, in altri momenti crea il tifo per il grande calciatore, quindi è inoffensivo. Però ecco, questi meccanismi evidentemente esistono e sono stati studiati da sociologi, da storici, da politici, ed è interessante come vengano poi usati, e hanno poi delle cose che si ripetono. Possono essere dittatori buoni, tra virgolette, comunque la parola già è una contraddizione, però insomma ci sono questi meccanismi. La peculiarità del documentario era di raccontare come gli italiani vedono, no, questa figura fisica del leader, che è specifica. C'è una differenza, per esempio, che ha rilevato Gustav Jung su Hitler e Mussolini, che abbiamo raccontato nel documentario, che secondo me è interessante. Come Hitler era il leader del popolo tedesco, ma perché era una sorta di messia, era un leader carismatico, c'era questo rapporto con l'alto, no? C'è qualcosa di mistico. Mentre invece Mussolini aveva un rapporto fisico con gli italiani, cioè lo definiva Jung il capopopolo, che è un altro tipo di leader, è il tipo fisico, cioè di pancia. Ecco, gli italiani sono più di pancia quando si tratta di scegliere. Infatti Silvio Berlusconi, per esempio, è anche di questo genere, no? È una questione che ha a che fare poi col sesso molto, no? Quindi è una cosa fisica, sì. Non certo ideale. Senti Fabrizio, la questione legata al corpo del Duce è proseguita poi nel tempo. Il mausoleo che ospita i resti è diventato, con tutto poi il carrozzone del merchandising che ruota intorno a quel luogo, ma insomma luogo di pellegrinaggio con i pullman, i picchetti d'onore, insomma qualcosa anche di molto inquietante. È inquietante e non allo stesso tempo. Devo dire, io ci sono stato due volte per le riprese di questo film. Devo dire, ho provato molto disagio nel vedere questa piccola folla, perché comunque è una piccola folla. Si riuniscono soprattutto in due occasioni: l'anniversario della morte del Duce e l'anniversario della marcia su Roma, quindi il momento, diciamo, secondo i fascisti più alto del loro percorso storico è quello più basso, e per il resto dell'anno poi vanno delle comitive. Quello che inquieta è che non tanto i nostalgici, vabbè, anche quelli non è che sono da esaltare, i nostalgici che tornano là, ma la gente che non sa nulla, che non distingue, non capisce che sta diciamo omaggiando un signore che ha sulle spalle crimini nei confronti dell'umanità, e invece vanno lì con una sorta di sì, era un simpaticone, ecco, c'è l'ignoranza storica, perché poi è quello che riporterebbe in futuro a ripetere delle situazioni, certo, orrende, questa, certo, è la cosa. Comunque non è poi, sono nel film, io cito una cifra che ho preso dal libro, sono 50.000 l'anno che vanno a visitare la tomba di Mussolini, che sono tanti, però sono neanche poi così tanti, volendo, vuol dire, nell'arco dell'anno moltissimi sono famiglie che dice: che facciamo, andiamo a mare, oggi è brutto tempo, no, andiamo a vedere la tomba del Duce, capito? Che è anche brutto poi che non ci sia una lettura, però, di quello che cosa significa, è stato un po' lasciato andare. Sì. Dispiace, perché poi il comune di Pradappio è un comune progressista, illuminato e intelligente, che oltretutto, insomma, in qualche maniera cerca di capitalizzare anche su questo introito turistico, però forse potrebbe fare un passo in più e magari raccontare meglio che cosa significa non lasciare semplicemente ai fanatici, ai nostalgici. Certo. No, la parte meno bella di tutto sono i giovani, quelli insomma accaniti, sì, no? Quelli lì che vanno lì, più neonazisti che neofascisti quasi, ecco, quelli lì fanno un po' impressione perché poi è gente che si gasa radunandosi in queste occasioni, e questo qua genera poi, secondo me, una sorta di autogiustificazionismo di cose del genere che sarebbe debellare alle radici. Sì. Fabrizio, che ne sarà prossimamente del tuo documentario? Il mio documentario è in vendita, penso, su via internet, i canali normali come DVD, questa è la cosa. Ha partecipato a vari festival, penso che abbia un po' concluso l'arco dei festival ai quali è stato invitato, è stato a Torino, è stato a Bari, in altri festival, e probabilmente verrà rimesso in onda a un certo punto e forse uscirà con il libro di Luzzatto che è stato ripubblicato in edizione economica. Io spero solo che non mi costringano a fare un terzo documentario una condanna, si passi oltre, insomma. Bene Fabrizio, allora io ti abbraccio, magari ci sentiamo per novità non legate a queste tristi figure, insomma, e a risentirci presto. Con piacere, grazie. Ciao Fabrizio. Bene, siamo in conclusione. Visionari torna giovedì della prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e la pagina internet è sul sito della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, ma anche su Facebook.